si muovono in maniera diversa. Noi almeno sull'efficienza energetica stiamo cercando di proporre progetti autosostenibili, cioè che si autofinanzino e che possano rendere comunque essere economicamente sostenibili sia per la compagnia che per l'investitore. Nel campo invece dei nuovi carburanti diciamo che il tema è un po' diverso, perché chiaramente gli investimenti sono più importanti e devono essere comunque promossi dalla compagnia. In questa fase le compagnie non hanno tutta questa voglia o possibilità di investire. È il nodo delle risorse dunque, al solito il punto debole di tanti progetti, soprattutto nella difficile congiuntura attuale. Non sprecare energia è comunque un buon punto di partenza. Per il nostro reportage è tutto. Un saluto da Vincenzo Miglietta. Reportage in collaborazione con Euronet.